Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Sento quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie. Cioè, a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sai la forza che un sorriso. Tu sorridi. Lo riascoltiamo questo inno cantato da Andrea Bocelli, La forza del sorriso. Expo si avvicina e inizia ad entrare sempre più spesso nelle nostre puntate, quelle sull'alimentazione ma anche quelle sul lavoro, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa quando abbiamo affrontato il tema dei lavori estivi per i giovani. Expo 2015 sarà una occasione per assunzioni temporanee per molti, direi moltissimi profili, quindi è bene per chi ancora non l'avesse fatto proporre la propria candidatura. C'è ancora tempo per farlo, visto che la kermesse universale durerà molti mesi. Questo è uno dei temi principali di cui oggi si occupano le pagine di Lavoro e Carriere, la nuova iniziativa del Sole 24 Ore del lunedì, di cui vi ho annunciato in apertura, che da oggi avvia un percorso con segnalazioni delle aziende che assumono, suggerimenti su percorsi formativi, un quadro settimanale con le opportunità in Italia ma anche all'estero, e anche le segnalazioni su un mondo di cui non si parla molto, che è quello dei concorsi pubblici. Allora aprite bene gli occhi quindi per cercare lavoro, per leggere queste pagine così importanti che vi aiuteranno, io ne sono sicura, me lo auguro, a trovare il consiglio giusto per una persona magari cara, per il vostro figlio, per un vostro amico che è alla ricerca di lavoro. Ne parleremo nella prima parte della trasmissione. 800 24 00 24, iniziate già sin d'ora prenotare i vostri interventi, e quindi se ce l'avete a casa prendete il numero di oggi del Sole 24 Ore, cercate le pagine di Lavoro e Carriere e iniziate a leggere con attenzione gli annunci. Fate lo stesso numero, il nostro numero verde, anche per dirci se per leggere avete bisogno di un paio di occhiali o se invece dovete allontanare il testo per avere una visione più nitida. A quale distanza senza occhiali vedete chiaramente i caratteri? La distanza è superiore a 25 centimetri, un palmo per andare a spanne, e forse state diventando presbite o lo siete già. Come le prime rughe arriva anche la presbiopia, non c'è da preoccuparsi, ci sono tanti modi per correggerla. Restate con noi e continuate ad ascoltarci e tenete sott'occhio le pagine del Sole. Nella prima parte di Cuore Denari torniamo a dedicarle a parlare del mondo del lavoro. Raccontateci come vi state muovendo nella ricerca di lavoro, cosa state cercando, quale difficoltà state trovando, ma anche quali strumenti utilizzate. Cercheremo di capire come funziona il panorama delle offerte, naturalmente nella speranza che possano presto incontrare le vostre domande, la vostra ricerca. Uno strumento in più da oggi c'è, ogni settimana col Sole 24 Ore, si chiama Lavoro e Carriere, ce lo presenta il nostro Mauro Meazza, capo redattore centrale del Sole 24 Ore, che è venuto a trovarci in studio. Ciao Mauro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mauro, questa è un'iniziativa importante perché il lavoro è un momento, per il lavoro un momento molto delicato, intanto perché c'è un riflettore sempre puntato addosso al Job Act, alla riforma del lavoro del ministro Poletti che ha introdotto il contratto a tutele crescenti, e poi perché anche se ci sono molte aziende in difficoltà c'è anche un mondo che in realtà è in grande movimento, aziende che cercano profili e professionalità, imprese che assumono, e voi proprio su questo avete voluto focalizzare la vostra attenzione. Presentacelo insomma, questa iniziativa. Sì, quello perché che nasce. quello che i lettori trovano questa mattina in edicola, che troveranno ogni lunedì, è un po' un'esplosione dell'attenzione per il lavoro che il Sole 24 Ore, storicamente, certo, e anche Radio 24 hanno da sempre e sempre avranno. E il momento, come dicevi tu, il momento è di trasformazione, di attenzione, le regole stanno cambiando, ci sono anche nelle dinamiche economiche più generali, ci sono accanto a delle difficoltà che perdurano della crisi, ci sono dei segnali positivi, ad esempio, certo, per le aziende che puntano molto sulle esportazioni, e poi ci sono queste opportunità, potremmo dire congiunturali, che vengono da Expo. A Expo abbiamo dedicato uno degli approfondimenti sulle opportunità della settimana, oggi in lavoro e carriere, complessivamente, inclusi gli stage che sono ancora disponibili, ci sono 2.350 posizioni ancora aperte, ancora da coprire. Mentre questo 5.500 che leggo nella prima pagina, 5.500 è un buon numero e che raggruppa una serie di posizioni aperte invece presso grandi aziende. Quindi abbiamo, hai già un po' svelato ai lettori quello che possono trovare per la parte, in questo caso, del privato, perché poi c'è anche tutta la parte del pubblico. Posizioni aperte, che non vuol dire una semplice raccolta, una collezione di annunci, ma proprio andare a cercare quali sono le prospettive, i settori più promettenti. Allora, in questo caso, grandi aziende che mettono in palio, per così dire, forse visti i dati sulla disoccupazione è il caso di parlarne come se fosse quasi una lotteria, ecco, ma le grandi aziende possono arrivare ad offrire anche migliaia di posizioni, migliaia di posti. È chiaro che all'interno di queste offerte bisognerà poi valutare qual è la tipologia di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, quali sono le competenze che vengono richieste a chi si vuole candidare, eventualmente limiti di età o anche limiti magari non espressamente di età, ma legati al tipo di lavoro che viene offerto. Tutto questo da ogni lunedì da oggi. Senti, Mauro, chi ti... ti aspetti come interlocutore oggi? A chi ti vorresti rivolgere? Ma io credo che... Chiamate l'800240024 se... se siete giovani e cercate una prima occupazione, o siete giovani e cercate di migliorare il vostro status occupazionale, perché potreste essere degli occupati magari a tempo determinato che vogliono invece cercare, certo, un passaggio a tempo indeterminato. E poi, se avete sempre sottovalutato l'aspetto pubblico, perché anche i concorsi pubblici possono essere una fonte preziosa di informazioni, se siete andate costantemente su internet ma vi siete persi, perché anche questo è un po' lo spirito delle nostre pagine, molto della ricerca di lavoro, delle offerte di lavoro oggi sta in rete, potremmo dire quasi tutto sta in rete, ma la rete è bellissima, ma è anche molto dispersiva. Noi vogliamo aiutare chi appunto va in rete a trovare una bussola, a trovare un percorso. E quando parliamo del mondo del lavoro c'è un punto di vista privilegiato che ci fa sempre piacere avere con noi in studio, quello di Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24. Carlo, benvenuto. Grazie Nicoletta. Carlo, Back to Work accompagna le piccole imprese nella ricerca di risorse finanziarie e di competenze qualificate, ma accompagna anche professionisti che hanno un'esperienza da mettere a disposizione e permette loro di incontrare le aziende. Insomma, tu tieni sicuramente d'occhio in modo costante il mercato di lavoro. Torniamo a raccontare bene ai nostri ascoltatori di che cosa vi occupate, quali movimenti questo vi permette di notare nel mercato di lavoro, e anche a te, come ho chiesto a Mauro, quale richiesta ti aspetti, a chi vorresti dare una mano? Sì, intanto grazie dell'invito. Noi ci rivolgiamo in particolare a quel target, a quel vasto numero di lavoratori che magari sono stati costretti a uscire dal mondo del lavoro negli ultimi anni, sono tanti, quindi magari di un'età più matura, ma che con un patrimonio clamoroso di competenze potrebbero intraprendere, per costruirsi la seconda o terza parte della carriera, un'attività di una soluzione di autoimprenditorialità. Sì. Ma siamo andati oltre. Invece di indurli a pensare di crearsi l'ennesima una società di consulenza o l'attività con i familiari, gli abbiamo proposto in maniera strutturale e ormai anche dimensionalmente sempre più significativa di immaginare che la propria carriera possa svolgersi dentro piccole imprese. Stiamo parlando di milioni di imprese in Italia che a loro volta hanno necessità di crescere, perché se non cresce la piccola impresa italiana non si può trovare una soluzione per questo paese, che hanno bisogno sicuramente di finanza, sì, perché le banche, le cose, certo, soliti discorsi già fatti, ma sicuramente forse di più di competenze diverse e nuove rispetto a quello dell'imprenditore. Mm. Allora, il manager, quando dico manager voglio dire un lavoratore qualificato, sì, maturo. Maturo? Sì, maturo. Diciamo oggi si è abbassata l'età dell'essere maturo che cerca lavoro anche a 40 anni, può cercare attraverso di noi delle belle opportunità di piccole imprese, quelle che non appaiono spesso sui giornali ma che hanno bei prodotti, bei mercati, che hanno bisogno di crescere, e apportando un po' di capitale, quello della liquidazione, quello della buona uscita, e portando, valorizzando le proprie, certo, competenze, possono diventare soci di imprenditori. Noi abbiamo 3.000 manager in questo momento che si sono affidati a noi, abbiamo quasi 2.700 imprese e stiamo incrociando domande e offerta. Vi do un ultimo dato: ogni giorno ne arrivano 4-5 manager in più, gente che vuole trovare lavoro in piccole imprese e anche metterci del capitale, e 7-8 imprese ogni giorno che si iscrivono da noi. 800 24 00 24, avete due esperti a vostra disposizione oltre alle pagine di Lavoro e Carriere. Mauro, quindi voi pensate, Carlo ci sta raccontando che qualcosa sta cambiando, lo raccontate sempre anche voi sul Sole, ma sperate di raccontare la ripresa nei prossimi mesi attraverso queste pagine? Beh, ce l'auguriamo. Naturalmente sì. Speriamo di raccontare un mercato più dinamico, più ricettivo di quello che abbiamo visto in questi anni di crisi. Io prima ho evocato così, ho invitato i più giovani alla consultazione delle nostre pagine, naturalmente le figure invece citate da Carlo sono altrettanto importanti. Cioè anche perché Domenico trovano... ti ha scritto subito: Mauro, ma noi che facciamo? Noi cinquantenni ci tiriamo un colpo? Assolutamente no. No, anzi. No, ma infatti l'opportunità di Carlo è subito intervenuta in soccorso. È evidente che anche chi vuole migliorare o semplicemente si trova costretto a trovare un'altra posizione può trovare nelle pagine di Lavoro e Carriere delle opportunità interessanti. Ora, per dirti, noi abbiamo le segnalazioni di Costa Crociere, abbiamo McDonald's, abbiamo Ikea, ma ci sono anche tipi di concorsi o di posizioni o di percorsi che possono essere più adatti invece a, li abbiamo chiamati maturi, non vorrei offendermi da solo, insomma, lavoratori maturi. Ecco. Ci piace il lavoratore maturo. Sì, tra l'altro maturi non è solo un fatto anagrafico, anche proprio di competenze acquisite non c'è niente tempo, di male essere, non c'è niente di male essere maturo, vuol dire io sono anche... anagraficamente molto maturo anch'io, moltissimo, molto maturo, e come competenze si vedrà. Allora Mauro, ci sono anche delle rubriche specifiche che ritroveremo ogni settimana su Lavoro e Carriere. Una è quella che riguarda i concorsi pubblici, ad esempio oggi parlate di un concorso dell'esercito. E qui torniamo sui giovani. Certo. Qui torniamo sui giovani, perché il concorso rappresenta un'ultima tranche di una chiamata per addirittura 7.000 posizioni, attualmente ne sono ancora aperte 1.500, lo spieghiamo oggi, spieghiamo anche quali sono le competenze che vengono richieste. Ma non è l'unico concorso pubblico e non è l'unica attenzione al pubblico, c'è un'altra parte che abbiamo voluto posizionare nelle pagine di Lavoro e Carriere, che riguarda ad esempio le iniziative regionali, perché spesso a livello locale, a livello regionale sono attive delle modalità di aiuto, di sostegno, di formazione, di prima occupazione, sì, che possono essere interessanti anche per, in questo caso, per lavoratori maturi, perché non di rado le regioni sono le prime a occuparsi di riqualificazione di lavoratori che sono espulsi dal mercato del lavoro. Tra poco parliamo dell'Expo che abbiamo citato in apertura di trasmissione, perché siamo al rush finale e c'è sicuramente molto movimento, ma abbiamo Giovanni che ci chiama da Brescia. Buongiorno Giovanni, benvenuto e grazie. Grazie a voi di tenermi in compagnia in questo lungo anno di disoccupazione, ho 53 anni, il mio motto è sperare, resistere e, come il motto della Tridentina degli Alpini, mai stanchi di cercare. Bravo ecco, Giovanni. Io faccio tutto il possibile, anche perché avendo un bambino di 9 anni ho delle motivazioni esagerate, però devo dire che in un anno, anzi 14 mesi di disoccupazione, 112 curriculum inviati e diversi colloqui fatti, però vedo che l'età anagrafica pesa tantissimo, perciò che avendo pure delle buone competenze a livello di settore terziario, di comunicazione, perché ho sempre lavorato col pubblico di qualsiasi tipo. Trovo anche il discorso delle regioni in teoria molto interessante, in pratica io mi sono iscritto a due istituti, per l'Istituto Avviamento al Lavoro e un altro centro di formazione, chiedendo se era possibile fare dei corsi di informatica per migliorare il mio stato, e l'inglese, visto che è buono, ma vorrei migliorarlo ancora, il francese lo parlo come l'italiano. Non c'è saltato fuori ancora nulla, nonostante siamo in Lombardia, che dovrebbe essere una regione capo. Certo. Addirittura ci sono dei corsi di informatica e altre storie che, se sei in mobilità o sei in cassa integrazione, sono gratuiti, se sei disoccupato niente da fare. Ecco, quindi secondo me il mio è un urlo, ecco, di disperazione, perché ripeto, per un padre di famiglia essere a casa da 14 mesi, abituato a lavorare in mezzo alla gente, certo, e di essersi sempre, non dico rifiutato che è una brutta parola, però scartato, ecco, pesa tantissimo. Speriamo che cambi qualcosa, e sicuramente sulle 24 ore spero mi dia una mano a trovare con questo nuovo inserto qualche possibilità. Grazie Giovanni. Mauro, Ce la metteremo tutta davvero, Giovanni. Voglio dire, qualche cosa possiamo anche girarlo al ministro Poletti, perché nel Jobs Act, che dobbiamo completare l'attuazione, ci sono una revisione degli ammortizzatori sociali che ancora dobbiamo vedere, e ad esempio questo problema che segnalava lei dell'accessibilità di corsi di riqualificazione per alcune figure o per alcuni status e non per altri, è una delle cose che speriamo vengano risolte. E sempre nel Jobs Act c'è l'idea di avere delle agenzie di lavoro più collegate tra di loro, con una più virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Oggi purtroppo anche da regioni che vengono considerate efficienti, ci segnala questo ascoltatore che le cose possono avere invece dei buchi notevoli. Quindi questa parte la giriamo al ministro, teniamo per noi invece la sollecitazione a un'attenzione particolare ai lavoratori, appunto, maturi, che sono stati espulsi al mercato. Carlo, sì, un suggerimento per Giovanni. Ovviamente la formula di back to work l'ho raccontata prima, sì. C'è anche la soluzione di intraprendere attività in proprio. In questo senso la Regione Lombardia dà dei supporti, guardate, non così insignificanti, a chi può avviare un'attività. Ovviamente si tratta di mettersi in gioco, rischiare anche forse un po' del risparmio che in quel momento uno pensa di tenersi, perché finché non trova il lavoro. Ma oggi il mondo del lavoro è esattamente quello che ci ha raccontato Giovanni: uno manda 130 curriculum in 14 mesi, non trova il lavoro, quindi è inutile sperare solo in quella strada, cioè trovare un'assunzione. Bisogna diversificare, bisogna anche diversificare qui le modalità. La parola d'ordine, quella che ho imparato in tutte le puntate che ho fatto con Deborah, diversificare. Allora Mauro, parliamo prima dei mercati rapidamente di Expo, naturalmente ci torniamo, avete dedicato, no, un approfondimento importante nel numero di oggi, stuzzicaci un po' prima dei mercati. Ma le opportunità ancora presenti per Expo in questi ultimi oramai 15 giorni prima della partenza, partiamo il 1° di maggio come sapete, non sono per lo più per posizioni apicali, però possono essere opportunità interessanti per non restare altri 6 mesi in attesa. Perché lavoro chiama lavoro. Mia nonna diceva così, che non leggeva ancora il Sole 24 Ore, era una donna del 1897, era nata, però secondo me è vero, no? Anche è vero per i ragazzi, è vero per le persone che temporaneamente senza lavoro si buttano in un lavoro magari temporaneo per poi relazioni, no? Si cerca. Certo, trattandosi poi di un'esposizione internazionale, in questo caso Expo, è chiaro che il requisito della lingua inglese, prima lo evocava il nostro ascoltatore, è importante, comunque la conoscenza delle lingue straniere. C'è, devo dire, un po' di tutto, anche posizioni per così dire di leader, leader per l'accoglienza, quindi responsabile magari di un intero stand, oppure un responsabile del retail, quindi delle vendite, di quello che può essere l'attività di vendita dei vari stand. Naturalmente ci sono anche degli stage per posizioni più banali, per dir così, la hostess, lo steward, l'accoglienza spicciola dei visitatori. Saranno naturalmente contratti a tempo determinato, probabilmente non sfoceranno in un'assunzione, ma potranno forse aprire delle porte. Cuore e denari. Non si può leggere nel cuore. non vi chiediamo di leggere nel cuore, ma al massimo di leggere un libro o, per rimanere in tema, una pagina di Lavoro e Carriere, nuovo spazio del Sole 24 Ore del lunedì dedicato al mercato del lavoro che mi stiamo presentando oggi insieme a Mauro Meazza. Ma intanto che leggete, diteci anche se leggere vi stanca, se fate fatica a vedere i caratteri nitidi a meno di 25 centimetri, se vi sembra nell'ultimo tempo di aver bisogno di una maggiore illuminazione, oppure se avete superato gli ANTA, forse state o siete diventati presbiti. È una condizione fisiologica, non è un difetto refrattivo come ad esempio la miopia o l'astigmatismo, e si può anche correggere. 800 24 00 24, ne parliamo a partire dalle 11:45 con il dottor Lucio Buratto. Il nostro numero verde a vostra disposizione per continuare a parlare di lavoro. Lo facciamo perché da oggi c'è il nuovo strumento per cercare lavoro, Lavoro e Carriere. Mauro, fate incontrare chi cerca lavoro con chi offre lavoro. Abbiamo parlato anche con un nostro ascoltatore a dimostrazione del fatto. Giovanni da Brescia ci ha chiamato e ci ha raccontato un po' la sua storia. Non trova lavoro nonostante da un anno abbia mandato tantissimi curricula. Bene, abbiamo già avuto due proposte di lavoro, hanno chiamato nel nostro centralino, naturalmente ci metteremo in contatto. Questo racconta tante cose, no? Non solamente che Cuore Denari ascoltata, che questo direbbe Deborah, ma che è importante, bisogna trovare, evidentemente qualche cosa non funziona se ci sono, no? Che questi incontri non avvengono. Sì, ed è un po' anche lo spirito per cui noi abbiamo voluto ampliare l'attenzione per il lavoro con le pagine di Lavoro e Carriere. Tutti i giorni Sole 24 Ore parla di lavoro, sul sito parliamo di lavoro, però ci è sembrato il momento più opportuno, certo, adesso per essere particolarmente attenti. Tra l'altro mi fa piacere che anche una segnalazione radiofonica possa tramutarsi in un'opportunità per l'ascoltatore. Noi abbiamo messo a disposizione una casella di posta elettronica lavoroecarriere@ilsole24ore.com dove le aziende possono segnalarci le disponibilità, le posizioni aperte in questo momento, e noi le vaglieremo, le valuteremo, perché il nostro spirito non è solo quello di fare una selezione di annunci, ma anche di andare a ragionare su settori più promettenti, fasce di età, insomma raccontare da vicino il lavoro. Allora, a proposito di lavoro, abbiamo parlato dei lavori per Expo, abbiamo alcuni a cui voi dedicate uno spazio, abbiamo delle indicazioni, delle raccomandazioni, dei suggerimenti prima di passare ad un messaggio che mi preme leggervi, Mauro? No, Carlo? Direi solo buona volontà e disponibilità. Ma quello che si diceva prima, cogliere qualsiasi occasione perché ti rimette nel circuito virtuoso delle relazioni che ti possono portare poi a trovare nel tempo. Tra scegliere un lavoro magari minore rispetto a quello che è abituato o stare a casa, che si vada comunque a lavorare anche a poche condizioni economiche non proprio eccellenti. Allora, vi voglio leggere un messaggio, non è firmato, ma mi scrive: ingegnere ambientale, master in ingegneria delle acque, ormai ricercano solo tecnici commerciali, ossia rappresentanti. È vero? Come possiamo commentare questo messaggio? Io direi che... Che cosa si fa quando si ha la sensazione di essere troppo qualificati? Ci sono degli aspetti di autoimprenditorialità, prima evocava Carlo questo aspetto del mondo del lavoro, che stanno cambiando e tramutando molto il rapporto. Cioè, per alcune figure oramai la posizione di lavoratore subordinato è diventata in piena concorrenza con quella di lavoratore autonomo. Che piaccia o non piaccia, stiamo appunto, ripeto, raccontando una fase che durerà per anni probabilmente, raccontando una fase in cui la tradizionale dinamica lavoratore autonomo contro lavoratore dipendente si sta tramutando, si sta modificando, ci sono degli intrecci e questo va più o meno colto. Chi è molto qualificato può trovare magari migliori soddisfazioni nel darsi il lavoro da solo, cioè nell'aprire una posizione e offrirsi poi. Vedo che anche Carlo Bassi è assolutamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Certo che bisogna avere coraggio. Però sai, Nicoletta, quando è nato Back to Work, molti che venivano da me dicevano, ah, ma io devo... E la mia domanda era, e altrimenti? Perché ci sono delle condizioni che non trovano la soluzione se si torna sempre alle meccanismi a cui eravamo abituati. Il posto dipendente in generale è ormai diventato una cosa rara. Poi ci sono delle figure, come diceva Mauro, che ormai nel mercato si trovano con costi variabili da professionisti o da imprenditori. Ma perché io, azienda, devo a quel punto assumere quel tecnico quando sul mercato ho la scelta e la possibilità di trovarne 10 come liberi professionisti o imprenditori? Questo sarà un meccanismo che andrà crescendo. Noi speriamo che anche il fisco tenga il punto sulla materia, perché sappiamo ci sono dei regimi per attivare nuove attività, il regime tra l'altro è stato rivisto proprio a decorrenza 2015, insomma bisogna farsi un po' anche commercialisti, ma queste sono altre pagine del Sole 24 Ore che non stiamo raccontando questa mattina. Bisogna farsi un po' commercialisti e anche un po' commerciali di se stessi. Hai visto? Allora, però io vorrei tornare a parlare di società che per fortuna offrono lavoro, che cercano personale, e oggi abbiamo in collegamento Alessandra Miata, che è direttrice delle risorse umane di Capgemini Italia. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, il vostro annuncio lo leggiamo forte e chiaro, proprio sulle pagine di Lavoro e Carriere del Sole 24 Ore: offrite 500 posti di lavoro. Sì. Per fortuna, appunto, noi siamo una di quelle aziende che sta crescendo e che continua ad assumere. Ecco, ma intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori di che cosa si occupa Capgemini. Sì, Capgemini è uno dei leader del mercato multinazionale nella consulenza alle aziende. In particolare noi progettiamo e realizziamo soluzioni di business e tecnologiche che permettono ai nostri clienti di migliorare i loro risultati, il loro posizionamento sul mercato. Io leggo figure ricercate, laureati in ingegneria, matematica, informatica, economia, scienze economiche, bancarie. Sì. È corretto? È corretto, sì. Ma nel concreto ci può spiegare cosa può significare fare consulenza per un laureato in un'azienda come la vostra? Ci fa un esempio molto concreto, così lo capisco anch'io? Ma guardi, per noi diciamo l'inserimento di un giovane significa innanzitutto collocarlo in un team di lavoro. Noi lavoriamo in gruppo, quindi sin da subito i neolaureati vengono inseriti in team di lavoro con l'obiettivo subito di analizzare e comprendere le specificità dei nostri clienti, quindi con un'esposizione immediata al cliente e con l'obiettivo di progettare la migliore soluzione perché quel cliente raggiunga i suoi obiettivi, che sia la soluzione di business o che sia una soluzione tecnologica, di norma poi anche la realizziamo e tante volte ci occupiamo anche di mantenerla, quindi tutto il ciclo di vita del supporto al cliente. C'è una cosa interessante, alla voce contratti io leggo 70% apprendistato, 30% tempo indeterminato, insomma non è male, no? Potevano esserci contratti anche molto più brevi. Che cosa vi ha portato a fare questa scelta? Ma guardi, dietro queste soluzioni contrattuali c'è per noi la volontà innanzitutto di investire sui giovani, e questo spiega perché 70% contratto di apprendistato, è un contratto molto congruente con l'approccio di Capgemini, che ha sempre offerto una significativa formazione all'ingresso da parte dei giovani che entrano nel mondo del lavoro. E per quanto riguarda invece le persone con esperienza, noi ci facciamo riferimento a contratti a tempo indeterminato perché le risorse e le persone sono il nostro business, quindi le loro competenze e le loro capacità ci permettono di stare sul mercato, quindi non sono investimenti a breve termine, non abbiamo mai avuto la logica del utilizzare le competenze ad hoc solo per un certo periodo, noi sulle persone lavoriamo e quindi è naturale per noi prevedere degli impegni di lungo periodo. Allora, buona giornata e buon lavoro ad Alessandra Miata, direttrice delle risorse umane di Capgemini Italia, a risentirci. Grazie. Grazie, grazie mille. Andiamo a sentire Francesco dalla provincia di Livorno, 800 24 00 24. Benvenuto Francesco. Sì, salve, buongiorno a tutti. Cerco di essere estremamente breve. Io volevo portare un esempio purtroppo un po' pessimistico. Allora, 3 anni lavoro a tempo indeterminato. Non ho capito quanti anni ha, scusi. 33. 33. Allora, lavoro a tempo indeterminato già da diverso tempo, non sono soddisfatto, quindi 2 anni fa mi sono rimesso in discussione. Ho investito soldi e tempo per prendere delle specializzazioni che nel territorio erano e sono tuttora ricercate. Una volta finito il percorso e con le specializzazioni in mano, mi sono presentato dalle aziende che cercavano queste specializzazioni, tante strette di mano, tante pacche sulle spalle, bei complimenti. Quando poi andavamo a parlare però nel concreto di posizioni lavorative e di compensi, La strada era terribilmente insistente, perché vuoi la crisi, vuoi la situazione un po' particolare, mi veniva offerto una posizione e un compenso che francamente erano estremamente riduttivi. L'idea di mettermi in proprio c'era, c'è sempre stata, ma in quel settore particolare purtroppo le leggi sono tali per cui sarebbe stato più corretto scrivere che o sei figlio di professionista o non hai accesso a quel mercato. Francesco, quindi questa è la sua testimonianza. Grazie, una testimonianza. Insomma, Francesco sembra scottato, un po' deluso. Un'indicazione. Partiamo da Carlo Bassi. È frequente una situazione simile a quella di Francesco? Assolutamente sì, è molto frequente. Poi io non ho capito qual era il settore a cui lui voleva rivolgersi, quindi non so fare un riferimento preciso. Che però il mondo del lavoro, anche quando oggi, lo si diceva prima, tu ti pensi di costruirti una maggior formazione, poi non abbia le stesse condizioni che poteva avere. E certo, perché cambia. Ma non è una cosa di cui possiamo più sorprenderci. La maggior parte delle imprese, e parlo non solo delle grandi, anche quelle che hanno immesso sul mercato tanti professionisti, ma le piccole e medie si sono viste ridurre i fatturati nell'ordine del 30-40-50%. È un meccanismo strettamente connesso alla riduzione del fatturato, cioè una riduzione o del personale o riduzione delle condizioni che prima regolavano i rapporti di lavoro in termini economici, di posizione e quant'altro. Questo è un fatto inevitabile. Quindi Francesco lo rimandiamo a Lavoro e Carriere, Mauro, al guida alle migliori opportunità della settimana. Sì, forse, se mi permetti, con un'avvertenza. Ha detto una cosa molto, molto giusta, molto corretta la dottoressa di Capgemini, la responsabile di risorse umane di Capgemini, sul fatto di investire sulle persone. La crisi ha purtroppo fatto sì che ci sia una riduzione dell'investimento delle aziende sulle persone, piccole o grandi che siano queste aziende. Allora magari se uno avesse addirittura la fortuna di poter scegliere tra due posizioni, io mi sentirei di dire meglio un'azienda che ti dà l'impressione di investire su di te e sulla tua crescita. Perché questo poi alla fine è quello che consente anche all'azienda di crescere. È stato tutto molto contratto, si è dovuto tutto molto ridurre per la crisi, però insomma non possiamo sempre chiamare in causa la crisi e continuare per anni e anni e anni a lamentare questo percorso di crisi. Reagire vuol dire anche appunto ricominciare a scommettere sulle persone che si assumono come si vuole, con il contratto che si preferisce. Ringrazio Mauro Meazza per essere stato con noi, Carlo Bassi, grazie. Grazie, tornate presto a trovarci. Deborah torna domani, per cui oggi ve la siete... Ma noi la salutiamo radiofonicamente. La salutiamo, bene, ma possiamo dire che non ci è mancata. No, anche. Questo non è vero, a me manca sempre Deborah, però vi ringrazio perché ho cercato di sostituirla degnamente. Grazie per il vostro aiuto, per la vostra chiarezza e per le informazioni. Cuore e denari. E io ti guarderò con gli occhiali dell'amore e ti vedrò attraverso le lenti dell'amore e mi metterò in... E noi non vogliamo portarvi dall'oculista dell'amore, non credo neanche esista, ma vogliamo curare, affrontare, parlare di un disturbo che prima o poi ci tocca tutti. Più o meno tutti nel mezzo del cammin di nostra vita siamo costretti a inforcare gli occhiali per leggere, scrivere, mandare un sms o per svolgere tutte quelle attività che richiedono una buona visione da vicino, o a toglierli se siamo miopi. Non è nulla di grave, l'abbiamo detto già in apertura, è un regalo degli anni o se preferite un segno di maturità. Con le prime rughe compare anche la presbiopia. Non si può prevenire ma si può correggere. Ne parliamo oggi con il dottor Lucio Buratto, che ci ha raggiunto in studio, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Ricoletta, buongiorno. Dottore, arriva prima o poi per tutti un momento in cui la visione alla normale distanza di lettura diventa meno nitida, specie quando si passa da un'immagine lontana a una vicina, o di avvertire una sensazione di stanchezza, di affaticamento, le lettere si sdoppiano, gli occhi ne bruciano, può comparire anche un leggero mal di testa. Insomma, ci siamo diventati o stiamo diventando presbiti. È normale, perché anche l'occhio con il passare degli anni cambia. Ma mi spiega esattamente che cosa succede? Ma sostanzialmente l'occhio perde un po' di elasticità. L'occhio, può sembrare strano, anche lui ha i suoi muscoli. E questi muscoli, dopo un certo periodo di tempo di uso, perdono le loro capacità, o meno in parte la loro capacità. Dentro l'occhio c'è un muscolo chiamato muscolo ciliare che ha la funzione di mettere in tensione alcune fibrille che poi muovono, diciamo, la forma del cristallino. Il cristallino sì. Mette a fuoco, se l'uno o l'altro o terzo di questi sistemi cede un pochino, ecco che la visione da vicino diventa più difficoltosa. Niente di male, diciamo, è un buon segno. È un buon segno perché vuol dire, no? Che abbiamo un po' di primavera sulle spalle, ma siamo in marcia. D'altronde la presbiopia democratica e quindi può aggiungersi a difetti refrattivi già presenti, anche i miopi diventano presbiti, però a differenza degli emmetropi invece di mettere gli occhiali se li tolgono. Ma per gli altri difetti refrattivi cosa succede? Per un miope sembrerebbe quasi una buona cosa, no? Diventare per presbite. Per miope leggero sì, miope di 1, 2, 3 diottrie praticamente si toglie gli occhiali per leggere e poi se li continua a mettere per lontano. Miope di 5, 6, 7 diottrie no, deve portare due paio d'occhiali, uno e quindi per una vicino, seccatura. Uno per lontano. Se poi è anche astigmatico allora a maggior ragione deve portare anche gli occhiali da lontano e da vicino, due paio d'occhiali. E anzi subentrano poi le difficoltà, perché non è che uno legge sempre alla distanza di 25-30 cm, c'è poi il computer, c'è il cellulare, c'è l'iPhone, c'è questo, c'è quell'altro, per cui le distanze di lavoro effettivamente cambiano, per cui l'occhiale che va bene da vicino non va sempre bene per la distanza intermedia o per maggior ragione meno per la distanza da lontano. 800 24 00 24, se volete parlare di presbiopia, ma se anche avete altri difetti refrattivi. La presbiopia non è un difetto, stavo cadendo nella cosa. Se siete presbiti ma avete anche difetti refrattivi, c'è un fatto che per chi non ha mai portato gli occhiali, quando si diventa presbiti è una seccatura, perché gli occhiali si tendono a dimenticare, si seminano, si perdono. Il risultato è che quando uno ne ha bisogno gli occhiali non ci sono mai. Però, dato che noi vogliamo sempre affrontare ogni cosa come un'opportunità, a ben vedere questo cambiamento può essere anche una buona occasione per sottoporsi dei controlli che solitamente chi vede bene non effettua, perché no? Non si va dall'oculista se tutto va bene. I 40 anni infatti sono un periodo molto delicato per la nostra vita ma anche per la nostra vista. Quali sono i controlli da fare? Ma diciamo che nell'ambito della vita di una persona bisognerebbe fare dei controlli intanto dall'infanzia, nell'età dello sviluppo, nell'adolescenza, poi diciamo che fra i 20 e i 40, se uno non ha avuto difetti prima, difficilmente compaiono. Dai 40 anni in avanti invece, oltre alla presbiopia, si possono cominciare a segnalare dei casi di glaucoma o di altre malattie dell'occhio, per cui una visita periodicamente ogni 4-5 anni secondo me è assolutamente necessaria. Siamo presbiti, ci rendiamo conto di esserlo, magari non siamo andati ancora dall'oculista. Cedere agli occhiali o resistere? Questo è un po' il dilemma. Ci sono infatti delle pratiche naturali, come il metodo Bates, che consentono di ridare l'elasticità a quelle strutture di cui lei ci ha parlato, che per l'età si sono un po' irrigidite, quindi aiutano un po' in qualche modo a contrastare questa difficoltà di accomodamento. Quando e a chi sono consigliati questi esercizi? Possiamo chiamarli di stretching accomodativo? E in che cosa consistono? Diciamo che come tutti gli esercizi sono consigliati a chi ha la costanza di farli innanzitutto, sì. Perché occorre dedicare 20 minuti, mezz'ora tutti i giorni a fare questi esercizi, che in pratica consistono nel dare maggiore elasticità a queste strutture che si stanno poi irrigidendo. Quindi una persona di solito giovane, diciamo giovane da intorno ai 40, 42, 43 anni, che vede questa presbiopia come un qualche cosa che sta minando la sua gioventù, cosa che non condivido, perché una persona di 40 anni adesso è assolutamente non è solo giovane, ma è giovanissima. Giovanissima. Perché? Allora, parleremo di queste pratiche, ma anche di eventuali interventi per correggere la presbiopia. 800 24 00 24, se volete parlarne insieme al dottor Buratto, vi aspettiamo dopo il GR. Cuore e denari. Occhi che sanno parlare, che ti prendono. E se i nostri occhi occhi sapessero parlare, ci direbbero forse che hanno bisogno di occhiali. Ma si può essere presbiti e dire addio agli occhiali. Ne parliamo oggi con il dottor Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano. Parliamo di presbiopia, dei segnali che ci aiutano a capire che per una serie di ragioni, primo fra tutte l'età, i nostri occhi stanno invecchiando un po', e come le rughe che segnano la nostra pelle, con gli anni possiamo diventare presbiti. Dottor Buratto, abbiamo parlato prima dei mercati della possibilità di fare una sorta di stretching accomodativo, naturalmente è per un po' allontanare il momento in cui mettere gli occhiali, che rimangono poi la soluzione per la maggior parte delle persone. Non vedo quando devo leggere, mi prendo gli occhiali, tra poco parleremo di come sceglierli, ma in questi esercizi vuole descriverli, perché magari c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori particolarmente metodico e riesce magari a farli. Praticamente bisogna lasciare riposare l'occhio per alcuni minuti, 5, 10, 15, 20 minuti a seconda della persona, e poi aprirli e leggere delle cose molto piccole, in modo da abituare l'occhio a focalizzare queste cose piccole, magari anche riducendo la intensità luminosa dell'ambiente dove si legge. Praticamente ripetendo varie volte questo tipo di esercizio tutti i giorni si riesce a riattivare la muscolatura oculare, in modo che si riduce la necessità di occhiali per vicino. Poi chi vuole più dettagli può cercare su internet cos'è il metodo BATES, si scrive così, e avere qualche informazione in più. In alternativa, la strada più facile per correggere la presbiopia sono gli occhiali. Le opzioni sono due: farsi fare delle lenti su misura oppure acquistare degli occhiali premontati. Questi correggono la presbiopia con gradazione da 1 a 3,5, uguali per entrambe le lenti e con distanza standard tra le pupille. Molti dei nostri ascoltatori ci chiedono: ma allora cosa fare? Devo andare dall'oculista e poi dall'ottico a farmi... Adesso andiamo a sentire che cosa ci chiedono. Chiara, buongiorno da Pordenone. Siamo arrivati al punto occhiali. Buongiorno. Buongiorno. La mia domanda appunto è questa. Possono essere usati in sicurezza gli occhiali per la presbiopia presi in negozi che non siano di ottica? La visita oculistica è stata fatta. Se la visita oculistica ha detto tutto ok, noi possiamo usare queste occhiali premontati, dottor Buratto? Così rispondiamo a Chiara e a tantissimi messaggi. Diciamo che se la visita oculistica è stata fatta anche una prescrizione di occhiali, e quindi l'occhiale può essere acquistato in base alla prescrizione da un ottico di fiducia, che è la cosa sicuramente migliore. Una volta che uno ha perso questo occhiale, che comunque si trova in una situazione di emergenza perché è in viaggio, perché è al supermercato, perché è in vacanza, eccetera, eccetera, vuole comprarsi un occhiale premontato, è una soluzione che può essere valida. Ma portare sempre gli occhiali premontati per correggere... Cosa può capitare? No, non va bene, perché ci può essere una piccola differenza fra un occhio e l'altro, perché la distanza fra i due centri delle lenti e i due centri degli occhi non è uguale, perché magari il tipo di lente non è quella idonea per quel paziente, perché la montatura magari non va bene. Sono gli occhiali premontati. Quindi meglio su misura. Gli occhiali premontati sono occhiali di emergenza. Io personalmente anche ne ho comprato, magari ero all'aeroporto, ho dimenticato a casa l'occhiale, me ne sono comprato uno all'aeroporto, però arrivato a casa l'ho messo in un angolo e non l'ho più usato. Quindi non ce le lascia mettere sempre? No, sempre no. E in alternativa, delle belle lenti a contatto per presbiopia sono un'alternativa agli occhiali? Ma io vorrei capire, dottor Buratto, al di là dei vantaggi funzionali ed estetici, rispetto agli occhiali, che cosa hanno di diverso? La lente a contatto può essere intanto di due tipi: può essere una lente a contatto multifocale, che quindi dà visione lontano e vicino, che però presenta qualche piccolo problema di qualità visiva, oppure può essere una lente a contatto per fornire quella che noi chiamiamo la monovisione, in cui un occhio vede meglio da lontano e un occhio vede meglio da vicino, che è una soluzione che può sembrare strana, ma che invece fornisce un'ottima indipendenza dagli occhiali, specialmente per chi non ha una presbiopia molto consistente. Quindi la lente a contatto è un buon sistema. Quindi metto la lente a contatto solo in un occhio? se io ho un occhio, se io ho i due occhi che stanno bene, sì, la metto solo in uno. Se io ho un difetto visivo, che ho per esempio una ipermetropia o un altro difetto, metto le lenti a contatto che correggono questo difetto. E un occhio, una che corregge oltre al difetto anche la presbiopia. Per cui riesco a gestire le due cose contemporaneamente, cioè correggere il difetto da lontano e anche correggere quello da vicino. 800 24 00 24 per parlare insieme al dottor Buratto. 349 238 6666. Continuate a mandarci i vostri messaggi, ma vado a Costantino che ci chiama da Biella. Benvenuto Costantino. Buongiorno, buongiorno a lei. E il dottore mi ha prevenuto in quanto io ero ipermetrope. E ho 73 anni e mi hanno fatto le due cataratte. Scusi, la prima cataratta nell'occhio non dominante è venuto fuori la lentina che ha messo nel cristallino un meno 2, mentre quando dopo due mesi mi hanno fatto l'altra cataratta sull'occhio dominante è venuto fuori 0, dunque perfetta. Io oggi come oggi vedo benissimo sia da vicino e da lontano con i due cristallini nuovi. È una cosa che può durare così perché mi sembra troppo bello, oppure dice che nel tempo passerà e diventerà di nuovo come prima? No, no, grazie. Senz'altro è una cosa che durerà, è una cosa che noi facciamo sistematicamente per chi lo desidera, diciamo, di dare questa situazione che, come dicevo, può sembrare un pochino inusuale, perché avere un occhio per lontano, un occhio per vicino è una cosa strana. No, invece funziona bene, perché in ogni situazione della giornata una persona ha sempre almeno un occhio che vede, che sia al non bar, fa venire mal di testa, no. Eh? Ci vuole qualche settimana di adattamento, certamente. 800 24 00 24. Andiamo tra poco ad Andrea, che ci chiama dalla provincia di Macerata, ma vorrei leggerle due messaggi. La prima è quello di Eloisa, che dice che tristezza gli occhiali da presbite, è un po' come segnalare a tutti la proprietà, anche se non la si dimostra. Quest'anno le toccherà, perché ecco, l'occhiale da presbite è un po' vissuto in questo modo. Però ci sono le lenti a contatto, tra poco parleremo di interventi veri e propri per correggere la presbiopia con il dottor Buratto, mentre degli odontotecnici, dottor Buratto, hanno bisogno di lei, utilizzano quotidianamente lo stereomicroscopio a 15-20 ingrandimenti. Mettiamo a rischio la nostra vista? Consideriamo poi che il più giovane ha 47 anni e che ormai tutti portiamo gli occhiali da vicino. Ci dia qualche consiglio per non peggiorare la situazione? No, non c'è nessun rischio, anche perché tutti questi microscopi hanno la capacità di mettere, diciamo, a fuoco quello che è correggere il difetto che uno ha, cioè di mettere a fuoco bene la visione, per cui, a parte un po' di affaticamento che c'è in tutte le attività, anche che perché gli occhi sono vista, fatti per essere usati, no? No, assolutamente fanno sì, quello di lavoro. La mattina sono maestra elementare, la sera lavoro in un ristorante dove uso il palmare per le ordinazioni, occhiali sempre introvabili. Ho risolto grazie a voi che mi avete fatto conoscere le lenti a contatto progressive. Questo ci scrive Adriana, ma andiamo a vedere come si può correggere la presbiopia. Ci si può intervenire, dottor Buratto, sulla cornea o sul cristallino? Ci aiuta un po' a capire le differenze e le indicazioni di questi due tipi di approcci? Qual è il profilo della persona candidata a un tipo di intervento e qual è quello indicata per l'altro? Partiamo prima dagli interventi sulla cornea. Interventi sulla cornea vuol dire che si lavora all'esterno dell'occhio, quasi sempre si lavora con dei laser eccimeri che possono dare alla cornea una forma multifocale che consente quindi di vedere sia da vicino o da lontano. Questo tipo di intervento è di solito prevalentemente utilizzato per i presbiti giovani, cioè fra i 40 e i 50 anni. Un altro sistema può essere di mettere una piccola lente all'interno della cornea, in questo caso però si mette solo in un occhio e ha la funzione di dare quella che noi chiamavamo appunto la monovisione, quello che si ottiene mettendo la lente a contatto da una parte sola. Esatto, questo sistema delle lenti dentro la cornea è ancora poco utilizzato perché è una cosa abbastanza nuova ancora. Diciamo, più solitamente si adopera il laser, anche il laser può dare quella che noi chiamiamo la monovisione, cioè se uno ha un difetto visivo prima dell'intervento, con l'intervento laser si corregge il difetto esistente e poi si corregge anche la presbiopia. Lei ha detto che è indicato per presbiti di primo pelo, no? Intorno ai, tra i 40 e i 50 anni, però ci sono delle condizioni in cui evitare o rinviare l'intervento laser per la presbiopia? Sì, beh, certamente non sono tutti i pazienti idonei, bisogna fare una visita accurata, tutti gli esami necessari per ogni intervento laser occorre farli, questo è assolutamente indispensabile. È vero che è anche controindicato in chi assume ormoni? Beh, diciamo nella fase in cui assume gli ormoni può modificare leggermente l'entità del difetto, non è che l'intervento è controindicato in sé, diciamo che può essere un filo meno preciso come risultato. Andiamo ad Andrea che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie a lei per avermi dato questa possibilità. Buongiorno dottore Buratto. Io la mia esperienza è quella di aver fatto una scelta ben precisa dopo essermi accorto che non riuscivo a leggere benissimo i menu in un ristorante. Ho fatto una visita, mi è stata diagnosticata questa presbiopia e ho preferito l'opzione occhiale con lente bifocale. Non sono molti, diciamo forse qualche decimo, non parliamo di gradi, e comunque è un disagio portare gli occhiali per pulirli, fare sport, toglierli. E quindi la mia domanda era rivolta soprattutto un po' alla prevenzione, in parte lei ha già risposto. C'è il rischio di un'apatia, non so se posso chiamarla così, visiva, nel senso, abituandomi a questi occhiali bifocali potrei con il tempo peggiorare la mia situazione, oppure valutare l'intervento, se magari un intervento di routine per cercare di migliorare. Andrea, diciamo la presbiopia, grazie, è un difetto progressivo, cioè a 40 però a un anni, certo punto finirà anche questa finisce, presbiopia, cioè, assolutamente, oh, finisce intorno mia ai 60 anni. Ah, va bene. Diciamo fra i 40 e i 60 anni però la presbiopia progredisce, quindi portando l'occhiale si dovrà adeguare questo occhiale ogni 4-5 anni. Ma non è che l'occhio sta male, non è che l'occhio è malato perché la presbiopia aumenta, o meglio, bisogna naturalmente vedere che non ci siano malattie, ma la presbiopia è un fenomeno naturale che avviene e che peggiora con l'avanzare degli anni, proprio legata proprio all'età. Dicevamo, dottor Buratto, che la presbiopia si può correggere anche con interventi sul cristallino, che è quella lente che si offusca, no? Quando abbiamo la cataratta, giusto? Sì. Che sta diventando tra l'altro un problema sempre più diffuso anche, no, nelle persone giovani. Un tempo si diceva si opera la cataratta quando è matura, adesso invece la operate acerba. Ma comunque, dottor Buratto, in questo caso che differenze, perché sul cristallino? Per prendere due piccioni con una fava? No, diciamo che intanto la cataratta si opera quando disturba la vista del paziente. Il cristallino perché? Perché passato una certa età ci si avvicina intanto comunque alla formazione della cataratta, perché la cataratta compare intorno ai 55, 60, 65 anni, quindi fare un intervento con il laser non è più sufficiente, anche perché comunque a quell'età la presbiopia è un po' più alta, quindi interventi con laser funzionano bene quando la presbiopia è bassa. Un po' perché il cristallino, una volta sostituito, è un intervento che dura tutta la vita, cioè il cristallino è immodificabile nell'arco dello spazio di vita della persona, per cui se la presbiopia viene corretta a 55 anni, viene corretta anche a 65, 75, 85 per sempre, certo. Quindi è un intervento duraturo. Andiamo a Bianca che ci chiama da Milano. Buongiorno Bianca, benvenuta. Buongiorno. Ma lei buongiorno. Si farebbe operare o metterebbe gli occhiali? No, io in verità dopo un intervento chirurgico intorno ai 40, dopo i 40 anni ho avuto un improvviso calo della visione, è successa questa cosa e ho avuto un problema evidentemente accessorio mal gestito in corso di almeno così. Per un intervento? Per una, dopo un intervento chirurgico, no, un intervento chirurgico d'altro tipo, una condizione di anestesia, sì. Ho avuto un improvviso peggioramento di un deficit visivo e sono diventata presbite, avevo tipo uno 0,5 e sono passata a un 2,5. Sì. E, improvvisamente sono diventata poi in poco tempo anche ipermetrope e credo che il professore abbia già risposto alla domanda che avevo posto inizialmente. Inizialmente io utilizzavo gli occhiali, le lenti bifocali, ma per il mio tipo di attività era assolutamente impossibile, ingestibile. e sono passata alle lenti, porto delle lenti a contatto giornaliere che però erano più 4 e mi dicono che non siano lenti, cioè sono delle lenti non progressive, sono delle lenti a contatto, un più 4 credo che sia una progressione. E si trova bene. Grazie Bianca. Dottor Buratto, torniamo con l'intervento di Bianca sulle lenti a contatto per la presbiopia. Ci sono delle indicazioni, delle raccomandazioni da fare? Beh, se porta intanto più 4 vuol dire che c'era già anche una ipermetropia iniziale, perché normalmente le lenti dovrebbero essere intorno al più 2,50, più 3, più 3,50, perché la signora, se ricordo bene, ha 52 anni, per cui... le lenti a contatto vanno bene se c'è una buona lacrimazione, se il paziente le tollera, se il paziente è contento del risultato che le danno, certamente è una soluzione molto gradevole. Dottor Buratto, io sono non ho capito una cosa: l'intervento sul cristallino che permette di correggere la presbiopia oltre che alla cataratta, quindi no, abbiamo due vantaggi con un'unica operazione, è un intervento che quindi potremmo, se siamo presbiti, aspettare che la presbiopia, che arrivino gli anni giusti per toglierci questi due problemi invece che lavorare sulla cornea? No, ci sono delle condizioni in cui questo intervento può essere fatto anche se non esiste la cataratta, per esempio nell'ipermetropia abbastanza forte, o quando ci sono delle condizioni oculari, per esempio spazi ridotti nella parte anteriore dell'occhio, per cui può essere indicato la sostituzione del cristallino, oppure nelle miopie elevate in cui il paziente non riesce più a tollerare la lente a contatto per altri motivi, eccetera, per cui qualche volta si fa l'estrazione del cristallino trasparente. La sostituzione del cristallino trasparente anche per correggere altri difetti preesistenti. Non è lo scopo primario quello della presbiopia, però è uno scopo aggiuntivo che quindi viene ottenuto anche in associazione ad altra correzione. Molti ascoltatori ci stanno chiedendo suggerimenti, consigli e pareri sugli occhiali stenopeici. Beh, questa è una cosa un po' più difficile da portare sicuramente. Perché sono quegli occhiali che hanno tutte le specie di forature, eccetera, ecco, eccetera. Ma io penso che la domanda sia nata in seguito a quegli esercizi del metodo Bates-Bates che abbiamo di cui abbiamo parlato per i casi per chi sta e appena iniziato a confrontarsi con la presbiopia, questi occhiali che dovrebbero permettere una sorta di ginnastica. Lei li consiglia? Sì, sono cose effettivamente abbastanza, come dire, particolari, abbastanza male uniche. Non fanno male? Ma no, non fanno male, ma non, di fatto io migliaia di pazienti che ho visto nella mia vita professionale non mi ricordo che qualcuno mi abbia detto che è vantaggio. Cioè, non... Grazie al dottor Buratto per essere stato con noi. Speriamo di rivederla presto qua a Radio 24. Intanto noi torniamo domani, parla al plurale, perché naturalmente torna anche Deborah. Buona giornata da Nicoletta. A domani.